Non ho mai portato in vita mia la maglia della salute. Un cuore grosso così sta ragazzo. Allora, so che hai parlato bene di Predator. No. Silenzio radiofonico. Il silenzio radiofonico in attesa di. Oh, buonasera! Oh, nessuno mi presenta, nessuno mi introduce. Cioè, ma che è? Buonasera Gabriele Vasquez. Buonasera, buonasera. Detto anche Niola. Niola. Qui qualcuno dice che Predators. Allora, come già annunciato, io in macchina venendo sento. Immagino. Come ha già annunciato. No, penso che quella sia un cadavere. Però provala. Piena di polvere. Quella diviene il tetano. Sì, quella diviene il tetano. Guarda, ce n'è una lì, là dietro, ragazzi. Allora, prego. Dicevo, come già ha spiegato Francesco, noi abbiamo avuto a che discutere già stamane su Predators. Allora, a lui non è piaciuto, opinione rispettabile per quanto poco comprensibile. Comunque, a me invece no, è molto piaciuto, l'ho trovato molto molto molto ben girato e soprattutto un bel film che come dire, calza la questione principale di Predator, cioè il rapporto preda-predatore, cioè l'originale Predator, quello di John McTiernan con Schwarzenegger. Aveva McTiernan. McTiernan. Beh, in effetti c'hai ragione tu, non potrò difendere questa. Sono quelle cose che tu cominci a leggere da piccolo, da bambino, e ti rimane non la pronuncia. Non urlate nel manico, abbiamo pochi minuti. Dicevo, rispetta l'idea originale del primo Predator, cioè il predatore che diventa preda, il fatto che ti trovi di fronte a l'altro per definizione l'alieno e il tuo ruolo cambia completamente. Per cui, e soprattutto poi andando poi a stringere, veramente è un gran bel film d'azione, molto ben diretto, bello dinamico, con un Adrien Brody calzantissimo. Fa schifo Adrien Brody. Una curiosità però, almeno, non ti è piaciuto il film, va bene, ma almeno l'inizio, come parte, bellissimo. Ma no, il film parte col precipizio, con uno che precipita, con gente che precipita. Allora io dico, precipizio per precipizio, vediamoci la scena di A-Team fantastica dove c'è un caro armato che precipita giù. È molto bello, però non è l'inizio, è quello che è il bello di Predator, che parta così. Cos'è? Precipizio per precipizio, voglio precipitare con A-Team. Ho deciso che questa cosa era. Col caro armato bisogna precipitare. Questa cosa della scena, anche prima che io lo vedessi mi diceva, c'è un inizio fantastico. È vero. I primi 60 secondi migliori della storia del cinema. 5 anni. Vabbè, insomma, morale della favola, da vedere o non da vedere? Sì. O da non vedere? Guarda, secondo me sì, schifo. Secondo lui no. Non passa, guarda, la gente lo odierà, va bene? Bella mi lancio. Secondo me no. La gente lo odierà. Secondo me a gente gli piace. No, la gente non gli piace. Solomon Kane? Su questo credo che concordiamo, sì, il sì, fatto sì, che è una vaccata col Solomon botto. Kane? Sì, una sola. Mm. Ma tra l'altro è una produzione strana, no? Perché poi è una cosa, ci sta la Repubblica Ceca, l'Inghilterra e la Francia a produrlo. Sì. E ha dei sottotesti cristiani fortissimi, cioè proprio molto intensi. Già la storia di per sé parla di diciamo una lotta contro Satana più o meno, ma poi lui è una figura veramente paracristiana, a un certo punto lo crocefiggono. Sì, e sì, lui si scrocefigge. Allora diciamo che è la risposta coatta ad Agorà, che se la prendeva un po' coi cristiani, no? Che diceva che i cristiani erano cattivi e ammazzavano le donne, le belle donne, sì, diciamo, esatto, per non dire altro. Ed erano vestiti di nero i cristiani. Allora, questa è la risposta coatta, bella pulp, col muscolo sudato e la spada. Però un po' pavida, perché poi quando al momento del dunque, quando devono fare la scena violenta, uccidiamo il bambino, non te lo fanno vedere. Vabbè, perché è un film per famiglie, per adolescenti, sì, un po', sì, un po' comunque pavido. È tratto dai racconti di Robert Howard, che era quel texano pazzo che inventò Conan. Però Conan sì che era serio. Vabbè, Conan è un bel film quello lì. Meraviglioso. Mamma mia, che bello. Meraviglioso. Il primo Conan con il protagonista Schwarzi, che c'era anche in Predator, ben altra cosa rispetto a Predator. Vabbè, queste sono le prime due uscite che mi avete bruciato. O meglio, ma anche le due. Non so se tu hai visto le altre due che escono questa settimana. Io no, però. Un microfono per due è prigioniero del segreto. Ma ti pare? No, mi sembra che ormai abbiamo proprio. Io ormai sono fuori dal giro. No, ma dicevo, cioè, volevo finire di dire Solomon Kane. Migliaia di euro. Aspetta, per volevo finire di dire Solomon Kane, invece, che ha una stranissima velleità del voler imitare Van Helsing, il film di qualche anno fa. Già era brutto. Esatto. No, a me è piaciuto Van Helsing. No, a me non era piaciuto per niente. Bello, però comunque bello. Esteticamente un po' lo vuole imitare, perché già lui somiglia, a Hugh Jackman. Hanno preso un finto Hugh Jackman. Come si chiama? Lui è il grandissimo. Adesso te lo dico. No, cominciamo col dire che è un attore, insomma, che ha le prime armi, James ha fatto alcune Purefoy. Cose. Il grandissimo James Purefoy. Che abbiamo visto già in. Che abbiamo. No, non si può cliccare qui. No, lo vedi le nuove generazioni. Sempre così. E tutti, tutto in testa, tenere tutto in testa. Ma c'è anche Max von Sydow. Che abbiamo già visto in tre film con Max von Sydow. Fuga per la vittoria. Stavo sbagliando. Il settimo sigillo e come in uno specchio. L'esame, cosa faceva in fuga per la vittoria? Faceva il generale dell'SS. No, il generale, l'ufficiale dell'SS. Anzi, no, non dell'SS, dell'esercito. Vabbè, cosa faceva nel settimo sigillo? Faceva il protagonista, un cavaliere che gioca una partita a scacchi con la morte. E vince o perde? Ma sai che non me lo ricordo? 7 secondi. Credo che alla fine lo frega. No, vince perché lo frega, non vince a scacchi, ma vince fregandolo con un trucco. No, perde no. Lui. Ah. E il terzo? Che cosa e il terzo faceva? È come in uno specchio, faceva un borghese che ha un. Piccolo, un piccolo o alto, alto? Risposta alto, esatta! Alto. Andiamo al domandone finale. I film della prossima settimana. Ah, qua ci divertiamo. Sulla prossima settimana saremo preparatissimi. Mai. Allora, il primo non l'ho visto, il secondo nemmeno, ma il terzo sì. Vabbè, ma ne parliamo la prossima settimana. Ma perché? Katia Mitrovic. Ma perché? No, perché sono la prossima settimana, devo ancora vederli. Cioè, ho una settimana di tempo per vederli. Sì, però cosa... Allora, noi aspettiamo. Prince, io ti sfido, dovrai mettere un brano dei Journey la prossima settimana. Madonna. Allora, però io ti sfido. C'è mio amico Mimmo che stava in fissa per i giorni. E io non capivo, non ho mai capito perché. Gli dicevo, Mimmo, ma perché ti piace? Abbiamo tutti giorni? Un amico Mimmo. Te lo ricordi? Esatto. Don't Stop Believing? Te la ricordi? Don't Stop ma Believing? Ma io ho formattato quella parte lì. La J, Journey, ho formattato. Allora, se io te lo porto il brano, lo metti? Perché no. Hendrix sta all'H. Vabbè, perché insomma in un film c'è questa canzone dei Journey, Don't Stop Believing, che viene utilizzata in modo geniale. Sì, devo dire che è una bellissima Marco, scena. Marco Scenuti che fa quella faccia viene, fidatevi di noi, viene, è d'accordo anche Gabriele. Sì, devo dire una bellissima scena, quella molto molto bella. E il film è The Losers, diciamolo. E poi ci sarà Fish Tank, e poi ci sarà The Box, da regista di Donnie Darko, ci saranno dei film. Molto atteso The Box appunto perché è di Richard Kelly, che ha già fatto Donnie Darko. Questo film, io devo ancora vederlo, ma se non sbaglio è un altro film intricato, categoria intricati. Intricato e intricante. Esatto. Quindi praticamente la puntata di oggi. Aspetta. Eccola! Ammazza che radio. Falla sentire. Sto facendo sentire. Io mi lavo la cuffia. Eccola, è lei. Mamma mia. Questa AOR così piatta. Bella, io me la sento ogni giorno mentre sì, faccio sì, beato, che fortuna. Guarda che nel film è utilizzata sì, proprio. Sì, no, è figata. Lo vedrai poi. Adesso ti dico quando entra nel film. Qua entra. Qua lui qua. Dopo, aspetta, c'è il solo con la Gibson. Un momento altissimo di radio. Eccola. Ah, è vero. Sì. Vabbè, ma di quale film stiamo parlando? Allora, si chiama, questo qui è un film che esce settimana prossima. Si chiama The Losers. Ed è tratto da un fumetto DC, della divisione Vertigo della DC. Ed è alla fine, se vogliamo raccontare la storia a grandi linee, praticamente l'A-Team. Praticamente è diverso, però insomma, siamo lì. È un momento A-Team. Perché poi sono dei militari che non sono più militari, che continuano, sono in borghese, ma continuano a chiamarsi colonnello, capitano. Ognuno ha il suo ruolo. C'è il nero grosso e rude, c'è il capo carismatico che comanda. Insomma, c'hanno un po'. Sensibile anche. Esatto. Gli piacciono i bambini, non in senso però. No, sì. Nel senso buono. Nel senso buono, sì. Cerca di proteggerli. E devono. Come dire, devono riprendere il proprio onore, un po' come l'A-Team, no? Esatto, diciamo che è l'A-Team. Aiuta, praticamente aiuta i poveri, sì, aiuta è la B-Team. Però diciamo B-team. Che più di A-Team è un po' più divertente, nel senso che è proprio iperbolico, finto. Cioè succedono quelle cose, quei film dove si spara, si prendono a cazzotti in faccia coi piedi, non succede niente, cascano dei palazzi, insieme fanno niente. C'è un carro armato però, che cade. Sì, no, io pensavo alla serie, però in effetti nel film. E spara per atterrare bene. Cioè, spara per direzionarsi. E spara per direzionarsi. Vi dicono i morti. Recensori, avete solo un dovere voi, non rivelare le scene. Vogliamo rispettarlo? Guardate che cambio su Radio Maria. No, Radio Maria no. No, però abbiamo più di un dovere però. Sì, però noi riveliamo scene che non ti levano la trama, però ti fanno godere di più quando le vedi. Sì. Prezzo, non è giusto che un critico possa arrivare a dire già il suo lavoro si muove sul... sentite come pompano i giorni. Come pompano, accidenti. Allora invece Francesco, sì, rendiamo onore a Francesco una volta tanto. Mi faceva notare invece una cosa molto interessante di questo The Losers, che vuoi dirlo tu, no, dell'attore che poi fa, invece farà un altro film, qui fa un ruolo che invece è diametralmente opposto a quello che farà nel prossimo film. No, dillo film. Tu, adullami. Tu adullerò Francesco dicendo che aveva notato una cosa interessante in questo The Losers. Uno dei personaggi protagonisti, quello che diciamo l'ha detto alle comunicazioni, quindi un po' il nerd della situazione, quello un po' sfigato, anche divertente, è lo stesso attore che è stato scelto per fare Superman nei prossimi film. No, che rifanno Superman. No, sì. No, non Superman. Batman. No, no. E chi? Mandrake. Capitan America. Capitan America. Tu dici, aspetta, metto Superman. Ti sei sbagliato. Hai avuto un lapsus. Ma io forse non lo volevo dire perché così ti sputtanavo alla radio. Sì, credo sia stato quello l'idea. Fanno Capitan America? Sì. È quello che fa Capitan America, insomma. Chris Evans. Che però il concetto è lo stesso, che dovrà fare un film. Secondo voi, perché non fanno un film su Capitan Mickey o Black Machine? Me l'aspettavo, io me l'aspettavo questa Black Machine. Perché non fanno un film su Black Machine? Perché? Domandatevelo. Perché non fanno un film su Black Machine? Perché secondo me non, perché non sono più in attività su Castellano e Pipolo, secondo o me. Su Mandrake. No, Mandrake lo sai che era un progetto di Fellini? Dino De Laurentiis voleva farlo fare a Fellini. Ma veramente? Anni a cercare di convincerlo a fare. D'altronde Fellini lo cita nell'intervista quando incontra Mastroianni. Mastroianni, ti ricordi la scena dell'intervista in cui si incontrano? Mastroianni vestito da Mandrake. È vero. È molto carina quella scena. Hai visto, so bravo, eh? Ammazza, che lezione. Vabbè, andiamo. Senza guardare internet. Non è un demerito saper andare internet a trovare l'informazione che l'ascoltatore vuole sentire. Predator spacca cazzo. Ecco. Vabbè, andiamo avanti. Andiamo avanti. Altre cose che abbiamo visto? Siamo poco. Esatto, te, questa stagione puntata è un prossimamente. No, possiamo dire una cosa, interessante. Anche in questi giorni sono arrivate una serie di comunicazioni dall'esercizio commerciale, dalle sale, dai vari cinema. Che praticamente anche loro ormai hanno un po' gettato la spugna nella serie, che questa storia di rivitalizzare l'estate cinematografica della stagione italiana estiva non sta funzionando. È fallita. Sì, perché grossi film vanno bene, Toy Story, Eclipse vanno bene, ma il resto è totalmente piatto, gli incassi sono a zero e comunque gli studi, le case e i produttori continuano a non investirci. Splice, è bello, Splice di Vincent, scusate, tanto stavo dicendo un sacco di stronzate. Allora, era Splice di Vincenzo Natali, che non è italiano, è canadese d'origine. Canadese. È regista di The Cube. Un bravo ragazzo, uno alto, un po' stempiato con gli occhiali, un tipo forte. E sono tanti anni che fa filmetti, li tira su. E questo è un film di fantascienza con Adrien Brody, che speriamo sia meglio che in Predators, dove sarà difficile, cacare, però comunque. E Sarah Polley, che è una bravissima attrice canadese, che era la bambina delle avventure del barone di Munchausen di Terry Gilliam. Poi è cresciuta, è diventata anche una brava regista, ha fatto un film sull'Alzheimer con Julie Christie che non si ricorda più niente all'improvviso. Accidenti. Vabbè, stai dicendo del cinema. Dicevo estivo. Che il problema è che i grossi film incassano bene, ma la produzione ancora, i produttori, gli uffici di distribuzione ancora non credono nella stagione, quindi continuano a riservare le mezze cartucce, quindi comunque non si crea un sistema, nonostante in questi anni si siano fatti diversi tentativi, non ci si riesce assolutamente. Perché non c'è il cinecocomero. No. Anche per quello non andavano benissimo, però. Guarda come era contento di dirlo. No, me l'ha insegnato lui. Io sono anni che qui batto il tasto. Quanto è bravo. Bisogna fare un cinecocomero. L'hanno fatto i fratelli Vanzina. No, l'hanno fatto, però non erano andati benissimo. No. Però c'era, secondo me, la cosa che un po' fregava è che non erano come i film di Natale, c'erano anche dei film un po' diversi, per cui non si poteva ricreare necessariamente la stessa dinamica. Ricordiamoli: un'estate al mare e un'estate ai Caraibi. Sì, ai Caraibi era l'altro. Sì. Ma il film di Stallone? Vedi, è una linea del 2010. Uomini nerboruti, ma di gran cuore, con un cuore grande, così, un po' come Vasquez. Nerboruti, come che gli piacciono i bambini, ma in senso buono. Si mettono insieme e fanno un po' di casino, però sono per bene, essenzialmente. Mi hanno detto che è un bel film. No, beh, che ne so. Spara tutto. The Expendables. Sì, ce lo aspettiamo tutti, però Sì, riunisce un sacco di icone, molto iconico. Iconico al massimo. La Polinesia è sotto casa. Bene, parliamo della Polinesia è sotto casa. Vai. Stavo vedendo la data di uscita precisa di Expendables. Sempre su internet. Vabbè, certo, io ho tutte le date in testa, ce l'ho avuto. non si ricorda niente. Non c'è quella italiana comunque. Tu ti ricordi per caso? Racconta la storia di Stefano, l'altro, un giovane manager che sembra avere tutto della dalla vita, ma che in realtà cova dentro di sé una grande insoddisfazione legata alla futilità delle cose di cui si è circondato e dei rapporti opportunistici che ha costruito. Beh, l'incontro con due giovani surfisti in difficoltà economiche farà aprire gli occhi su come avrebbero dovuto essere, insomma. Stefano intraprenderà così una ricerca come della legge felicità. Le trame lui sì. ho già voglia di vederlo. Cioè, incontro i surfisti? Ma questo comunque è la dimostrazione che invece poi l'estate continua a essere quella, la risacca delle opere mal distribuite. Questa è un'opera, non so come sia, magari è un capolavoro, che ne sì, no, ti dico, non so come sia, però è un piccolo budget, è un filmetto piccolo, magari straordinario, però regina, di quelli che hanno una piccola distribuzione, sì, e li buttano l'estate. Saverio Smeriglio e Andrea Goroni. Vabbè, conoscete? No. Saranno due intraprendenti. Distribuzione Medusa, che ha distribuito Alice, che è il film che io e Gabriele abbiamo odiato di più tutte le nella storia dell'umanità. C'era anche Carlo Rossella alla conferenza stampa. Medusa era lì con il suo uomo di punta a presentare questa cacata innarrabile, chissà come mai. Pretenziosa poi, madonna. Vabbè, insomma, niente, Madonna. Non possiamo parlare di cinema, ce ne andiamo, 20:53. No, aspetta, c'è la televisione, intanto che aspettavo la stazione Termini, intanto io facevo i compiti. Straordinario. Che aspetta la stazione. Sei un grande. Tu perché non eri qua, ma io ho portato la televisione nel cinema a Radio Rock. E infatti lo so, che non era una mia idea, io ero molto contro questa cosa. Esatto, io invece ho forzato le tue idee e sono diventato l'uomo del cinema e televisione. Cioè, non ho detto niente. Sì, veramente, vabbè. Attenzione un po', qui c'è un messaggio che dice una cosa che... Non ve ne può fregare di meno, ma vi informo che se non avete panico al villaggio, una sera in cui usciva Toy Story. E l'avevano tolto, manca il testo, ma probabilmente vuole dire per fare vostra Toy Story, peccato. Peccato, poi Toy Story è molto bello, ora esce in mille sale alla fine. Panico al villaggio è un capolavoro, c'è Cavallo protagonista. È vero, una volta uscivano più film horror d'estate, è vero? Adesso sì, un po' meno. Sì, perché viviamo in un'epoca più triste. Va bene. Sì. Allora, televisione. Oh, meno male. Via. Qualche notizia. Due film non eccessivamente ricercati, però di quelli che magari non avete visto. Vai. È la Rai anni 70. Esatto, sì, è la Rai degli anni Cosa 70. Offre il piccolo schermo? Mercoledì, Rai 1. 3 e 5 Rai del mattino, Rai 1, la rete istituzionale. Ma chi la vede ancora? Grande. Vai. 3:05, cioè 3:05 della notte tra mercoledì e giovedì. No. Per essere precisi, per la precisione. Ok. Che fine ha fatto Baby Jane? Ah. Film straordinario di Robert Aldrich con John Crawford. Aldrich. Sei sicuro? È Aldrich. Vabbè. Lo so pure io. Vabbè, questa cosa. La sapevo pure. John McTiernan. Perché uno cresce con queste cose. Ma scherzo, abbiamo pochi minuti. This non ci urlare. Famoso This is the end, my only free end. Free end. È il verso che a me mi piace di più della storia rock and roll. Che fine ha fatto Baby Jane? Mercoledì, Rai 1, 3 e 5 della notte. E invece un film meraviglioso, il giorno dopo, alle 2 del mattino, sempre in questi orari comodissimi, della notte tra giovedì e venerdì, su Rai 2 questa volta, Stasera ho vinto anch'io, di Robert Wise. Film sul pugilato, bellissimo. Basta, tutto qui? Questo è quello che fanno, no? Non è che posso inventarmeli. Come in 7 giorni fanno due film? Allora, in 7 giorni, sulle reti etere, non... etere sessuali. Digitale terrestre. Terrestre. Esatto, sulle reti via etere, i film che non siano, cioè se fanno 2001 non ve lo dico, voglio dire, lo sapete da soli. Perché dico delle cose un pochino più... Allora, tanti anni fa qui avevo una trasmissione il sabato bellissima, dove c'era una donna che parlava di concerti e un uomo che parlava di cinema. E lui pedissequamente... Ah, ma tutti sono contro, cioè. Lunedì abbiamo questo e poi si parlava del lunedì di concerti, non ero, martedì non ero abbiamo io, questo. Non ero io sono per gli highlights. Approfondiva, spiegava, non diceva parolacce. Io quando ero solo e non c'era un altro si qua, chiamava io Tiziano. Tiziano, che Tiziano fine, è Barbara. Che fine ha fatto? Non lo so, ma hanno detto che si droga. Ora si droga. È morto in un overdose di buon senso. No, scherzi a parte, non lo so, penso stia bene. Speriamo. Contattaci, Tiziano. Vabbè, io ho fatto il mio dovere. Cioè, finita. Sei arrivato 10 minuti fa. Sbrigati, ma abbiamo finito. Sei arrivato 10 minuti fa, non hai visto un film. Devi prendere me. Lo so. Fini di questa settimana li avevo visti. Ci mettiamo d'accordo a settembre. Non è vero, un microfono per due. Non l'hanno presentato alla stampa. Ah, ma spendi gli 8 euro. Ah, tra l'altro io solo Moncane, sono andato a vederlo. Solo come un cane. Perché non l'hanno presentato alla stampa, ma io mi sono immolato per la causa. Katia Mitrovic è venuta a venire a vederlo? No. Ecco, ti è, pure la mia compagna. Mi ha pacatamente detto che non gradiva. Ha detto amore, ha cominciato con amore, eh. Amore. Il maestro della pietra magica. Lo vedo settimana entrante. Questo viene presentato questa settimana. Sì, sì, è vero. C'è Michal Koff come attore. Il grande Nikita. È un regista. Fratello di? Tanto so che lo sa. Di Andrei Goncalossi. Perché non hanno lo stesso nome? Che sono fratelli? questa è bella. È la mamma. La mamma ha fatto un po' di cose. No, perché in realtà ce l'hanno, ma non usa il nome d'arte. Lui si chiama Nikita Mikhail. Grazie, ci sentiamo per quel che mi riguarda lunedì pomeriggio. Grazie, Vasquez. Grazie, Alò. Buona spiaggia, sarà un successo. Una cosa stasera. Del genere, non la sai. Questo spezzone lo metto su. No, questo è bello. Sul mio sito e lo faccio scaricare per spiegare come non si fa. No, guarda, venerdì prossimo. E ci sarà Tiziano con noi anche, saremo precisissimi, pacati. Io già lo sono pacati, precisissimo, pacati, anche molto pacato. Pacati e onnicomprensivi. Vabbè. Venerdì prossimo. Ricordatevi sempre che una pietra che rotola con il mesugo. Ciao, grazie, ci vediamo stasera alla spiaggetta per chi verrà a trovarci. Ciao. Salutate almeno. Ciao, io saluto. Baci a tutti, ciao, e fate sesso. Sei diventato violento. Ma chi? Insofferente. La vicinanza con perché? Non devi frequentarlo questo Alò. Perché arrivi qui in ritardo. Oh, ma io ero non hai visto neanche un film. Ma li ho visti tutti. Gli ascoltatori poi mi dicono: ma chi è quello? Io devo difenderti a spada tratta. Mazzullo vuole cacciare. Vuole cacciare, voglia. Oh, mi vuole così bene. Non lo posso credere.